Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati da parte di Diego Manetti sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con questo ciclo di conversazioni che, come ci diciamo ormai da qualche tempo, si propongono di sollevare una sorta di velo di silenzio che colpisce gli argomenti forse più interessanti della vita, quegli argomenti che proprio apparentemente così distanti dalla vita in realtà ne svelano il senso e il significato più profondo. Mi riferisco soprattutto ai novissimi. E abbiamo dalla volta scorsa ripreso in esame un testo che è uscito da poco in nuova edizione, cioè Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca, che proprio dà il titolo a questa serie di appuntamenti con voi ascoltatori e che attraverso anche le vostre domande, le vostre sollecitazioni, cerca di esaminare i cosiddetti novissimi, cioè la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso, attraverso un percorso che è scandito in tre sezioni, cioè parlare di quello che riguarda l'uomo prima della morte, l'esperienza della morte e quello che attende l'uomo dopo. Abbiamo visto la volta scorsa che non è così strano interrogarsi sulla morte se pensiamo alla metafora del viaggio. La vita è come un viaggio che ha una destinazione, e se non si pensa alla fine si rischia di perdere di vista quello che è il significato reale di tutto quello che intercorre tra la culla e la tomba. E anche laddove non si pensasse immediatamente che ci può essere una prospettiva trascendente ulteriore, si perderebbe di vista quello che è il significato di un viaggio che appunto in ragione della meta acquista un sapore e un gusto particolari. E oggi arriviamo a dire subito che parlare della morte, per quanto scomodo, per quanto forse fin troppo familiare in questo tempo di pandemia da coronavirus, è tuttavia una questione che non si può ignorare. Il terzo capitoletto della prima sezione per chi segue il libro. Diciamo che in tutti i casi, anche quando si affrontano argomenti scomodi, e se volete fare bella figura a una cena con amici, non dovete parlare assolutamente almeno di tre cose, cioè di politica, della morte e per quanto riguarda poi Dio, che ovviamente è la questione che più divide. E la morte è quella che noi prendiamo in esame in questo momento. Uno dovrebbe dire lasciamola da parte, così evitiamo quelle questioni imbarazzanti che diceva anche Pascal: spesso l'uomo fugge rifugiandosi nel divertimento, pensando così di poter evitare le grandi domande sulle proprie miserie umane e non accorgendosi che forse la vera miseria è proprio quella di non sapersi interrogare fino in fondo sul proprio destino di fragile creatura, però fatta per l'eternità. Questa è poi un po' la dimensione che tutte queste nostre conversazioni cercano di evidenziare e di sottolineare. La morte è dunque una questione che non si può ignorare. Perché? Perché la maggior parte dell'umanità, è vero, spesso non si pone direttamente questo interrogativo. La maggior parte delle persone che incontriamo nella strada, nella vita quotidiana, ogni giorno, sembrano interessate ad altre questioni. E questo non è un atteggiamento tipico di questa epoca. Non è che una volta forse ci si interrogasse di più sulle questioni ultime, oggi invece no. È un atteggiamento che anche nel Vangelo si può ritrovare. Penso in particolare a una parabola che Gesù racconta al capitolo 12 del Vangelo secondo Luca. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E si disse: farò così, demolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Ecco, questa è una parabola che conosciamo sicuramente, ma forse abbiamo spesso sbagliato a interpretarla. Spesso l'abbiamo forse accostata a una delle tante invettive contro i ricchi, contro quelli che pensano soltanto ad accumulare. Invece il tema è un altro. Gesù, come sempre, è estremamente concreto e molto diretto nei suoi insegnamenti. E lo è anche in questo caso. Si parla di un uomo ricco, ma non si dice che fosse un malfattore o un disonesto, anzi sembra un grande lavoratore, perché dice: ho accumulato così tanto che adesso devo costruire un granaio più grande. E non sembra neanche una persona tirchia o avara, perché nel testo si dice che sceglie di fare festa e godere di quanto ama, presumibilmente condividendolo con gli amici, perché anche Aristotele insegna che nessun ricco gode dei propri beni senza farne parte agli amici. Però appare quest'uomo in tutta la sua stoltezza, perché proprio mentre si preoccupa di accumulare e contare i suoi beni, non conta con altrettanta cura i giorni della sua vita. E il conto di questi giorni non è in mano nostra, ma è nelle mani di Dio. E Gesù lo ricorda molto bene: nessuno può aggiungere neanche un'ora alla sua esistenza. Mi ha sempre molto colpito questa indicazione di tempo. Non dice un giorno, un mese, un anno, un'ora. A volte ci sono delle giornate che ci sembrano noiosissime, interminabili, e diciamo speriamo che venga presto domenica ed è soltanto lunedì mattina. Tante volte io sgrido i miei studenti quando ragionano così. Li vedo a scuola e dicono non vedo l'ora che c'è sabato sera, ma perché? Gustati questa giornata, gustati questo momento, perché quando non ci sarà più ti accorgerai di quanto rapidamente è trascorso. E per quello che Gesù dice un'ora. Un'ora all'epoca era nulla, perché si lavorava non soltanto 8 ore come si usa oggi, i viaggi erano lunghi, settimane, mesi, la vita era computata in anni, decenni, si parlava di tempi molto più lunghi di quegli attuali che invece vedono l'uomo insomma vivere in maniera molto più frenetica, quindi un'ora era un po' come dire oggi chi può aggiungere un minuto alla sua vita? Un minuto non ci sembra nulla. Eppure, se sapessimo che è l'ultimo minuto a nostra disposizione, penso che quei secondi cercheremmo di renderli i più lunghi di sempre. Ecco, possiamo dire ancora che questo ragionamento che Gesù fa per quell'uomo stolto in realtà vale per ogni uomo. Vale per me che vi sto parlando in questo momento dai microfoni di Radio Maria, vale per chi magari ha già letto questo libro sulla vita eterna o anche per chi semplicemente all'ascolto. Cos'è dunque che muove Gesù a rimproverare quest'uomo ricco? Non è l'aver accumulato ricchezze e neppure di volersi dare alla pazza gioia senza magari preoccuparsi della salute, della glicemia o del colesterolo. Il problema è più radicale. Quell'uomo vive la sua vita come se la durata non fosse una variabile indipendente dalle sue decisioni, bensì potesse disporne a piacimento, ma noi sappiamo che non è così. E sappiamo che la morte può sopraggiungere da un momento all'altro ed è imprevedibile per chiunque. Dunque non è una questione filosofica o da intellettuali per cui posso scegliere se interrogarmi o meno, o posso dire io no, cose più importanti da fare, no, perché qualunque cosa tu voglia fare dipende dalla risposta che dai a questo interrogativo, dipende dalla consapevolezza, perché questa questione drammatica interpella ciascuno. A prescindere ovviamente da quello che fanno quelli vicino a me, a prescindere da se è trendy o no porsi queste domande, se va di moda, se conviene, se è politicamente corretto. Il problema è che un uomo non può fare a meno di interrogarsi su questo avvenimento così drammaticamente imprevedibile. Tu immagina di essere sul Titanic, no? La famosa nave inaffondabile che nel 1912 è invece andata a picco, con un bel numero di vittime, e immagina di vedere che la maggioranza dei passeggeri si mette a rimirare le stelle e si ripete come un mantra il Titanic è inaffondabile. Ecco, ma intanto sta andando giù, si è rotto lo scafo contro un iceberg, sta affondando, e anche se tu ti dici non affonderemo mai e ti metti a guardare la volta celeste, solo perché tutti fanno così, non diventi ragionevole, ma fanno tutti così. Non è forse vero che piuttosto ti metterai a correre alla ricerca disperata di un salvagente e cercherai di metterti in salvo? È che io ho avuto l'impressione che noi siamo un po' così nella barca della vita. Vediamo che tutti non si preoccupano, che tutti sono come lanciati a 180 all'ora contro un muro, ma nessuno si preoccupa. Tutti siamo su questa barca che tanto deve affondare, ma intanto godiamoci lo spettacolo. È terribile, perdonatemi il riferimento ancora una volta cinematografico, ma l'immagine del direttore di quella piccola orchestrina che dice è stato un onore suonare con voi compagni, continua a suonare il violino. Mi va bene se lo fa, se si era confessato un'ora prima, se si era messo in pace con Dio, se è nella grazia, ma se pensi che facciamo finta di nulla, continuo a suonare il mio violino, ma il tuo violino non ti salva. Devi stare di fronte alla realtà. Ora, è vero che la maggior parte degli uomini queste domande non se le pone. Vive come se fosse tutto qui. Cioè come se la vita si giocasse tutta nell'orizzonte intramondano, cioè interno al mondo. E allora perché uno dovrebbe interessarsi di quello che va oltre? Io in parte un po' l'ho già detto, no? Che sia tutto qui o meno, quello che conta è proprio scoprire come stanno le cose. Non pretendo che chi mi ascolta vada ad accogliere come una verità che vale a priori l'esistenza della vita eterna. Uno può dire, ma io ci credo. Beh, tu ci credi, il tuo vicino no. Se parti dalla fede, è evidente che escludi qualcuno. È invece importante avere un'esperienza e un'apertura che abbia a cuore l'uomo in quanto tale, che parta dalla domanda prima ancora di dare per scontata la risposta, perché se no, vi dico subito, cari amici, che tutti i ragazzi che mi trovo a scuola sarebbero tagliati fuori da questa prospettiva. Allora incomincio a dire, interroghiamoci, anche la tua vita, come la mia, è un fatto, è sospesa. E soltanto se mi interrogo sulla realtà della morte, capisco il significato della vita. Perché se tutto si gioca al di qua, è un conto. Se c'è la vita eterna, la prospettiva cambia. Uso ancora la metafora del cammino e posso proporre questo esempio. Se la vita è una strada, la morte è come la porta che si trova al termine di questa strada. Ora, cosa ci sia dietro la porta è una questione di interesse capitale per un essere ragionevole, perché se non c'è nulla o la porta non si apre, allora la vita ha una certa consistenza, è evidente che posso vivere in un certo modo, cercherò di godere il più possibile di ogni istante, di ogni esperienza, di ogni momento, ma è evidente che se invece dietro quella porta si apre un nuovo cammino di una durata e di una bellezza infinite, allora cambia tutto. E allora anche le asprezze, le fragilità, le fatiche, le sofferenze della vita ricevono un senso. È un po' come se si fosse attraversato l'arido deserto di cui parlavo la volta scorsa, dove ha senso invitare un amico a venire con sé solo se ci fosse la prospettiva di un bene grande, perché nessuno viene al caldo senza acqua con gli scorpioni. E se uno attraversasse questo deserto e alla fine si ritrovasse con un pugno di mosche, ma ne sarebbe valsa la pena? E se invece trovassimo il tesoro prezioso che abbiamo così a lungo cercato, allora sì che potremmo dire ha senso aver rischiato la vita, contando la sete, i serpenti, gli scorpioni, ma finalmente arrivo alla meta. Ecco, premesso tutto questo, dobbiamo chiederci, ma allora l'uomo è fatto per la terra o è fatto per il cielo? È fatto per le cose finite o per l'infinito? È fatto semplicemente per finire la propria esistenza come carne che diventa pasto per i vermi, o è fatto per lanciarsi nell'eternità beata del paradiso? E a questa domanda dobbiamo rispondere guardando all'uomo come una creatura fragilissima eppure fatta per l'infinito. Un po' il titolo con cui ho voluto sintetizzare il messaggio di questa conversazione: siamo fatti per il cielo, siamo di carne ma siamo fatti per il cielo, siamo effimeri ma siamo fatti per l'eterno. Già Sant'Agostino, tra la fine del IV secolo e l'inizio del V, vescovo e dottore della Chiesa, diceva nelle confessioni e l'esordio: tu ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ecco, proviamo a uscire dalla riduzione religiosa a cui si riconduce spesso questa affermazione e scopriamo una profonda verità. Provate a togliere la parola Dio che ci dà così tanto fastidio, la parola Signore, la parola Gesù. È una cosa che potrebbe indurre subito un non credente, un agnostico a dire la cosa non mi riguarda se parli di Dio. E provi invece a metterci infinito o eterno. Allora Agostino, come si dicesse, l'infinito ci ha fatto per sé. E finché io non trovo l'eternità o non trovo l'infinito, il mio cuore è inquieto. E di questo ne facciamo esperienza noi stessi ogni volta che ci accorgiamo dolorosamente che le cose finite del mondo non colmano le nostre attese. E mi colpiva una volta, no, una mia alunna che è innamorata della danza, e quasi che fosse una ragione di vita, dopo un certo percorso di fede si è trovata ad ammettere candidamente, profondamente, intelligentemente: ho capito che la danza non mi basta. Ma ma che poi uno potrebbe anche dire è come quando trovi l'uomo, la donna della tua vita e pensi adesso è tutto risolto e vedi che non è così. Cioè il tuo cuore è come se avesse una sete di un amore, di un senso che vanno sempre oltre. Allora posso prendere anche esempi più semplici, ancora più concreti. Io posso lavorare anni, anni, anni e poi mi compro finalmente la macchina nuova. Ma quanto durano poi il piacere e le emozioni di guidarla? Non è forse vero che dopo un po' nasce il desiderio di averne una ancora più veloce, più costosa, più potente? Ecco, ci sono due esempi che mi piace portare, che dicono un po' l'inquietudine del cuore umano e aiutano a riflettere su situazioni che spesso interessano soprattutto i giovani. Non mi illudo che ci siano giovani direttamente interessati alla questione dell'ascolto adesso, perché è sabato sera, però penso che magari qualche genitore, qualche fratello maggiore, qualche cugino, qualche nonna, chi lo sa, quindi cerchiamo di fare tesoro di quello che nell'esperienza ventennale, ecco, dell'insegnamento ho visto. Il primo caso è il sabato sera, eh? Non è un caso che se ci ha fatto anche un film sulla febbre del sabato sera, quante attese. I miei studenti me ne parlano fin dal lunedì mattina in classe, no? Sabato sera faremo questo, faremo quello, mille programmi, mille idee. E poi proprio questa febbre che sale mano a mano che ci si avvicina alla fatidica scadenza. Quindi uno vive questa serata, che ormai è più che altro una nottata, e come si era programmato. Poi si torna a casa, ormai è l'alba. Immaginiamo poi chissà i genitori come sono stati sereni e tranquilli ad aspettare i figli che tornano a casa che è quasi mattina, ci si butta nel letto e si santifica la festa nel modo più, come si può dire, pagano possibile, perché si trascorre in coma la maggior parte della domenica, eh? Ci si risveglia che ormai è pomeriggio e cosa mi dicono i ragazzi? Che ci si risveglia con una certa tristezza e io chiedo ma perché eravate tristi? Avete fatto un sabato sera così bello, vi siete no, distrutti, divertiti all'inverosimile, corsi fatti, bevuto, mangiato e chissà quanto, e qualcuno mi dice, ma perché pensavamo che poi il lunedì si torna a scuola, e al che no, la classe ride. Ma i più furbi intuiscono che il pensiero è un altro. E al che io replico, scusate, ma non è l'idea della scuola che vi rende tristi, ma è la consapevolezza che quel fantastico sabato sera è andato esattamente come voi avevate programmato, ma voi non siete soddisfatti. Avevate un'attesa più profonda e non riuscite a spiegarvelo, quell'inquietudine, quell'insoddisfazione, quella tristezza, quella malinconia, poi anche il fatto di continuare a girare anche da soli pur di non andare a dormire, no? Perché? Perché sembra quasi un fallimento perché non è successo quella cosa stratosferica che aspettavi. Che cosa aspettavi? Qualcosa di molto più grande. Allora, come dire, la danza non mi basta, questo sabato sera fantastico non mi basta, è come se per quante inebrianti esperienze uno possa vivere, per quanto sballo si possa ricercare, che poi è un po' la versione radicale e odierna del divertissement pascaliano, si ha la percezione che manca sempre qualcosa. E proprio a conferma di quanto scrive Sant'Agostino, il nostro cuore è fatto per l'infinito, ed è inquieto e insoddisfatto finché non lo trova. Un altro esempio che mi viene in mente da proporvi, e quello che poi condivido anche con i miei studenti, e riguarda l'apertura del cuore umano all'infinito, è relativo alla vita affettiva, perché quando si parla di amore, anche quella ragazza in fondo all'ultima fila che sembra tutt'uno col banco da mesi, improvvisamente alza la testa e ti ascolta, quindi basta trovare l'argomento dell'amore, energie nascoste e sopite riemergono, no? Meravigliosamente, ma d'altra parte, scusatemi, se siamo fatti da Dio che è amore, è evidente che l'amore ci tocca nella carne e nel vivo, no? E parliamo della vita affettiva, allora chiedo ai miei studenti, ma vi ricordate il primo appuntamento con la fidanzata, col fidanzato, no? Cerco di ricreare un po' l'atmosfera per coinvolgere tutti i presenti, anche se magari sono, non so, magari le 12:30 uno pensa già alla pasta asciutta, e mi faccio raccontare un episodio concreto da chi si sente di condividere, no? A un certo punto tento di puntare l'attenzione sui dettagli particolari, no? Le paroline dolci che accompagnano le dichiarazioni di intenti, magari di fine cena, e provocano incalzando, magari poi sono le ragazze che di solito amano un po' di più sognare, no? Anche a voce alta e condividere, e dico allora ma cosa vi siete detti alla fine della cena? E poi magari prendo il maschietto di turno e dico dimmi un po', ma tu hai guardato la tua bella negli occhi? E cosa gli hai detto? Ti amerò fino alla prossima fidanzata? Oppure ti amo fino alla fine della scuola? O fino al prossimo, non so, governo, finché finisce la pandemia, fino alla pensione? E poi chi lo sa, no? Che poi quei tempi che ci sono, neanche la pensione più una sicurezza. No, non gli hai detto questo. Tu guardi la ragazza che ami e che desideri negli occhi e magari osi anche una cosa, no, in consulta, è quasi strana, la prendi per mano e cosa dici? Ti amerò per sempre. Non dici per tutta la vita, eh? Quella roba te la fanno dire quando ti sposi in chiesa, perché il sacramento si sa che dura tutta la vita. Ma tu dici ti amerò per sempre. Dici per sempre. Cioè tu che hai 15 anni, che non credi, che guardi un trentenne come se fosse un vecchio decrepito e che pensi che vivrai per l'eternità, al tempo stesso ti godi ogni giornata come se fosse l'ultima, sei ancora un po' confuso sul tempo, che ti senti già adulto, in realtà sei ancora un ragazzino, e dici per sempre. E queste sono parole grandi, e sono più grandi del cuore che le pronuncia. E perché uno dice parole così? Anche se sarebbe disposto a giurare di non credere all'eternità, di non credere all'infinito. Guardate che queste cose capitano anche noi adulti, Ti interrogano fuori dalla messa, ma lei crede alla vita eterna? No. Perché queste cose qui, un po' vecchie della Chiesa, ma no, che tutto qui. Poi però quando trovi uno che ti vuole bene, ah che bello, vorrei che non finisse mai. Passi una giornata in cui ti senti amato, che peccato che è finita. C'è il per sempre, ce l'hai nella carne. È più forte delle tue idee, è più forte del tuo orgoglio, delle tue convinzioni e dei tuoi ostinati no. Ora, perché un ragazzo, per quanto, rincretinito possa essere dalla vita materialistica, edonistica, che conduce, è capace di dire per sempre? Perché il suo cuore conosce cose che la ragione, ma non soltanto dei miei studenti, la ragione di un uomo spesso non sa. La tua ragione non c'è ancora arrivata a capire quello che il cuore sente. Il cuore sente, il cuore sa che tu sei fatto per sempre, che sei fatto per l'eterno, che sei fatto per l'infinito. Ecco, secondo me questi due esempi, l'inquietudine di un sabato sera grandioso che tanto ti lascia poi con la bocca amara e dall'altra il desiderio di poter dire a una persona ti amo per sempre, sono due indizi più che sufficienti per parlare a chiunque, ateo, agnostico che sia, che l'uomo non è fatto solo per la terra. Che è fatto per il cielo, che è fatto per l'eterno, che è fatto per l'infinito. Ora, accorgersi che la vita terrena non basta al cuore dell'uomo non è un'invenzione dei preti, Non è una cosa della Chiesa, è un'esperienza possibile per ogni uomo. Io ribadisco che questa è la mia prospettiva, è la mia prospettiva personale, la mia prospettiva da insegnante, da educatore, parlare di quello che colpisce il cuore dell'uomo e non anzitutto di quello che vale soltanto per chi già è credente. Perché? Perché Gesù è vero Dio, ma è vero uomo. E quindi quello che lui propone come vive vale per tutti gli uomini. Bisogna però saper fare un percorso che si definisce ascensivo, cioè saliamo dall'esperienza umana le grandi risposte, non facciamo il contrario, no? Perché se tu pretendi che tuo figlio ti ascolti citando il Vangelo, forse l'approccio è sbagliato, Non ha bisogno di predicare tuo figlio, ha bisogno di vedere che quell'ipotesi di senso che tu gli proponi, tu la vivi per primo. E se vede che tu, nonostante tutto, sei lì che vai avanti e sei affezionato, attaccato a questa cosa, a un certo punto ti interroga. Mi viene sempre in mente un episodio che racconta Franco Nembrini nel suo libro di Padre in Figlio sull'educazione, quando dice forse una domenica pomeriggio il bambino più piccolo di 5 anni che sbircia dal tavolo e lo guarda e lui sta correggendo i compiti di italiano e dice l'istinto qual era? Smetti di correggere, gioco con mio figlio. E poi invece dice no, continuo a lavorare e voglio che mi veda, perché in quei 5 anni di bambino che lo guardano curioso c'è una domanda non detta: papà, dimmi che ne vale la pena. Cioè io tu 5 anni mi sto godendo la vita, gioco, ti vedo che lavori, fammi vedere che tu lavori contento, fammi vedere mamma che tu cucini contenta, fammi vedere fratello maggiore che vai a scuola contento, cioè voglio capire che ne vale la pena, non che è tutta una sfortuna, meno male che ci sono le vacanze, le pause, gli stop, no, non posso vivere continuamente in fuga da me stesso, vorrei che tu mi dicessi che vale la pena di vivere questa vita. Ora, a chi mi chiede perché l'uomo dovrebbe alzare gli occhi al cielo e non limitarsi a guardare dove cammina, come dicevano una volta le mamme, io potrei rispondere citando alcuni messaggi della Regina della Pace. A Međugorje la Madonna appare dal 24 giugno 1981, sono ormai 40 anni, sei ragazzi, oggi adulti, sposati con figli, dicono che questa apparizione, questa presenza materna ha guidato la loro vita, con messaggi che ci dicono che siamo fatti per il cielo. Ad esempio il 25 ottobre del 2006, cari figli, voi siete così ciechi e legati alle cose della terra e pensate alla vita terrena. Dio mi ha mandato per guidarvi verso la vita eterna. Che bello sentire che la Madonna non viene a dirci fate una bella azione caritativa, una bella ONG, per riuscire a distribuire coperte, pasti caldi, perché questo è lo scopo per cui... No, lo scopo è guadagnarsi la salvezza eterna. Poi se per far questo devo anche dare dei pasti caldi lo farò, ma anzitutto devo puntare alla meta. E lo scopo non è raccogliere margherite, ma arrivare in cima alla montagna. O ancora, è del 25 luglio del 2000, cari figli, non dimenticate che qui sulla terra siete in cammino verso l'eternità e che la vostra dimora è in cielo. E ancora, 25 dicembre 2007, non dimenticate che siete pellegrini su questa terra e che le cose vi possono dare piccole gioie, mentre attraverso mio figlio vi è donata la vita eterna. Ora, essere pellegrini, essere in cammino, dice, ma sì, belle paroline, no caro, perché se ti capita di perdere una persona che ami, se capita che la morte bussa alla porta di casa tua quando tu non vorresti, queste non sono paroline. Questo è l'unico modo per guardare alla vita senza disperarsi, senza arrabbiarsi, senza pensare che sia tutto assurdo. E io non posso dire altro, scusate. Ma quando una famiglia viene a chiedermi aiuto perché c'hanno il nonno che è malato, c'è la moglie che è malata, dici, e bisogna pregare per così Dio lo guarisce. Ma non lo so se lo guarisce, magari no. So che Dio farà un miracolo, ma non so qual è. Ma io devo ricordarti che siamo fatti per il cielo. No, non parlare del paradiso che poi si spaventa. Ma di cosa stiamo parlando? Ma se pensiamo che la prospettiva è soltanto quella terrena, ma hai già perso. Ma non torneranno mai i conti. Se sei fortunato, ne imbocchi qualcuna di circostanza favorevole. Ma pensi mica che il Signore faccia i miracoli a Lazzaro perché voleva che avesse un po' più di vita terrena? Ma no, perché voleva che dicessero, ma che cosa strepitosa ha fatto quest'uomo. E quando hanno calato il paralitico dal lettuccio, pensi mica che dicessero, ecco adesso c'è un in più che cammina, ma figurati. Ma quanti credettero quel giorno vedendo un simile potere stato concesso agli uomini sulla terra? Questo fa anche camminare i paralitici. Il miracolo serve non solo per chi ne beneficia nell'ottica di una conversione per la vita eterna, ma soprattutto per quanti assistono. Sono tantissimi i messaggi della Regina della Pace che potrei citare. Forse il motivo per cui sono così legato a Međugorje è proprio che il cielo è sceso sulla terra per ricordarci che siamo fatti per il cielo. È come uno che scendesse dalla vetta della montagna e dicesse, vengo a darti una mano, ti faccio fare l'ultimo pezzo di strada, lo fai con me, ti ricordo che la vetta esiste. Perché il problema è che oggi, anziché dirti le ragioni della fatica, ti vogliono togliere la fatica. No, pensate qui, i genitori che non fanno più far fatica ai figli, gli tolgono tutto, non preoccuparti, ci penso io. È bravo, e poi cosa fa? Questo appena esce dalla porta di casa, la vita lo asfalta. Sai che non è più capace, non è pronto, no? Invece, dagli una ragione per fare fatica. Però non dirgli neanche, la vita è fatta così. È un triste cammino, cioè la scala di un pollaio. Mi spiace, ma finisce così. Brutta, ripida, cioè una cosa proprio... No, ma la vita non è un posto così brutto, eh? Cioè la vita ha gioie e dolori, ha sofferenze e soddisfazioni. E ci sono aspetti positivi e negativi. Ma il suo senso, il suo compimento... è al di là di questo cammino terreno. Tutti questi messaggi che la Madonna ci ha dato in questi 40 anni ci ricordano che è necessario pensare al cielo, che non possiamo restare legati solo alla terra. E per me ovviamente questi sono moniti che da soli sono credibili, perché io ritengo che veramente la Madonna stia apparendo in questo villaggio della ex Jugoslavia, però se mi limitassi semplicemente ai messaggi di Međugorje, sarebbe forse un'opzione un po' limitata, perché chi non crede, chi non è per le apparizioni della Madonna, chi non crede al Vangelo direbbe, ma no, figurati, queste cose non funzionano. E chi non crede alle apparizioni? E allora io dico, beh, ti cito il Vangelo, no? In fondo anche il Vangelo, scusa, ma se la madre ci parla del cielo è perché il figlio ci parla del cielo. Pensiamo alla fine di quella parabola che ho citato in apertura, Luca capitolo 12, versetto 25. Chi di voi, per quanto si affanni, può giungere un'ora sola alla sua vita? E poco prima cosa gli aveva detto? a quest'uomo che accumulava beni senza pensare che la vita finisce stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che tu hai preparato di chi sarà? Sono citazioni dirette e inequivocabili. Però posso dire, ancora una volta, che uno potrebbe fare un'obiezione e dire, beh, i messaggi della regina della pace non toccano il cuore di chi non è meggiugoriano, passatemi il termine, cito il Vangelo pensando sicuramente l'uditorio molto più vasto che accoglie il Vangelo potrà dire, mi convinci? E sì, però il problema è di arrivare ad ogni uomo, non soltanto ai cristiani. E chi dice io non credo al Vangelo evidentemente non si trova soddisfatto, bisogna andare oltre per mostrare che la percezione della vanità, dell'orizzonte puramente terreno della vita è un'esperienza possibile per ogni uomo, quindi non per chi è mariano, non solo per chi va a Lourdes, non solo per chi va a Međugorje, non solo per chi è cristiano, per ogni uomo. Bisogna partire dall'esperienza dell'uomo, da quanto c'è in noi di umano. E quindi bisogna prescindere dalle personali convinzioni morali, filosofiche, religiose, e uno deve arrivare all'esperienza che chiunque fa. Ad esempio mi vengono in mente i versi tratti dal canto notturno di un pastore errante dell'Asia, di Giacomo Leopardi. Se pensiamo semplicemente a quello che abbiamo studiato a scuola, giriamo pagine. Invece dico, fermati un attimo, prova a pensare che Leopardi sia molto più e molto meglio di quello che la scuola ti ha fatto digerire male. Prova ad ascoltare un attimo questi versi. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve e il tuo corso immortale? Ecco, queste domande, no, di questo che è stato un poeta, uno scrittore, un filosofo, un filologo, ma sicuramente non un bigotto, anche se poi si è convertito in punto di morte, uno può dire tutto quello che vuole. Ma non può negare che questi versi in maniera eloquente parlano a chiunque. Non sono un appello al Vangelo, non sono un appello a un'apparizione mariana, qualche teofania, descrivono quegli interrogativi esistenziali che agitano il cuore di ogni uomo, persino di un semplice pastore errante dell'Asia che pur nella sua semplicità porta questa grande domanda. Poi Leopardi è un genio perché non è che prende l'intellettuale seduto a tavolino. Ha niente da fare, si interroga sulla vita. Un pastore, cioè di notte, sarà stanco morto, faceva freddo, guardava le pecore, la paura dei lupi, eppure si chiede, ma che senso ha la mia vita così breve? E cara luna, che senso ha la tua vita, il tuo corso così immortale? Ancora ricordiamo Cesare Pavese, scrittore, poeta, saggista, traduttore, che poi è morto suicida nel 1950, il 22 giugno, non molto tempo prima di porre fine alla sua vita, dopo aver vinto il premio Strega, che allora era il massimo riconoscimento letterario per uno scrittore in Italia, scrive: è una beatitudine, indubbio, ma quante volte la godrò ancora? E poi, e 3 settimane dopo, il 14 luglio 1950, scrive a Roma apoteosi, l'avevano osannato come fosse un dio, e con questo, e poi scrive le ultime parole, quelle che traiamo dal mestiere di vivere: tutto questo fa schifo, non parole, un gesto, non scriverò più. E sappiamo che oltre a non scrivere sceglie di togliersi la vita. Cioè tu puoi cogliere tutti i traguardi che vuoi, ma a un certo punto ti chiedi sì, ma fino a quando, fin dove, e poi, ma questa è la vera gloria? Posso ancora pensare a Tolstoi, che è un grande protagonista, un attivista sociale russo del XIX secolo, che nella sua confessione datata 1882 scrive forse parole che non sono così comuni, magari non così note. 5 anni or sono cominciarono a prendermi dei momenti di perplessità che si esprimevano sempre con le medesime domande. Perché? Beh, poi, dapprima mi sembrava che fossero questioni oziose e fuori luogo, essendo socialmente molto impegnato non aveva certo tempo da perdere in questioni, insomma, puramente intellettuali. Ma le domande, sempre più spesso, dice Tolstoi, cominciarono a ripetersi e ad esigere sempre più insistentemente delle risposte. Per occuparmi dei miei possedimenti, dell'educazione di un figlio, di scrivere un libro, devo sapere perché lo faccio. Finché non so il perché, non posso fare niente. Oppure, pensando alla gloria, che mi avrebbero procurato le mie opere mi dicevano: e va bene, sarai più famoso di Gogol, di Puskin, Shakespeare, Molière, di tutti gli scrittori del mondo. E poi? E nulla. Nulla, potevo rispondere. C'è nella mia vita un qualche senso che non venga annullato dalla morte che mi incombe inevitabilmente? Il mio problema personale, che cosa sono io con i miei desideri, scrive Tolstoi, restava completamente senza risposta. Ecco, io non sto dicendo che Leopardi, Pavese o Tolstoi siano più del Vangelo, niente affatto, anzi, il Vangelo è l'unica buona notizia che il mio cuore aspettava da sempre e così il cuore di ogni uomo, però dico che la strada migliore, forse, per mostrare l'esperienza della vanità della vita è proprio quella di ascoltare grandi uomini comuni, nel senso che non possono essere accusati di avere un pregiudizio su base religiosa e dunque sono in grado di parlare a tutti. E anche chi dovesse rifiutare totalmente il Vangelo, quando sente parlare due grandi laici, come si dice oggi, come Leopardi e Pavese, e li sente affermare che la vita è vana, inconsistente, cosa può obiettare in merito al fatto che anche la Sacra Scrittura insegna la medesima verità? È evidente che a questo punto uno potrebbe anche obiettare, no? Ed è intelligente farsi obiezioni e non accogliere semplicemente questo primo passo, come dire: ok, allora è vero anche tutto ciò che consegue. No, abbiamo fatto un primo passo, ci siamo detti vale la pena interrogarsi e notare che la vita è qualcosa di precario e di fragile, ma andiamo oltre. Anche se uno rilevasse la vanità evidente della vita terrena, la sua precarietà, la sua fragilità, potrebbe obiettare che a queste domande, ecco, di infinito ci sono risposte diverse. Uno potrebbe dire: ma chi ti dice che bisogna vivere per forza nell'eternità beata del paradiso? Magari si potrebbe semplicemente sopravvivere nel ricordo dei posteri. E già, se io, come ho fatto, cito Leopardi e Pavese, viene spontaneo dire: in fondo sono loro che ci hanno indicato la vanità dell'esistenza terrena, la fragilità della condizione umana, però in fondo è proprio grazie al loro pensiero, alla loro scrittura che hanno risolto il problema. E questo vale per loro, ma anche per altri innumerevoli pensatori delle civiltà umane, no? Perché in fondo grazie a quello che hanno scritto, hanno fatto, hanno pensato inventori, scienziati, medici, astronauti, artisti, mettete tutto quello che volete, ma persino i calciatori, alla fine in un modo o nell'altro hanno fatto qualcosa di talmente notevole che sono stati consegnati all'imperituro, come si dice, immortale ricordo dei posteri, a quella gloria immortale che si riserva ai grandi della poesia, dell'arte, della letteratura, della scienza, ma lo ripeto, anche della politica, dello sport, della canzone. Ma mi chiedo, ma siamo sicuri che questa sopravvivenza nel ricordo dei posteri sia la vera soluzione? Cioè, siamo sicuri che una volta che mi accorgo che la mia vita è precaria risolvo il problema dicendo: comunque i posteri mi ricorderanno? Anzitutto potrei dirti che il problema è di tutti e la soluzione no, perché tutti abbiamo il problema della precarietà della vita, ma che tutti possiamo rispondervi diventando famosi, e questo non funziona. So che siamo nell'epoca dei talent show e basta pensare di andare, non so, Italia's Got Talent o X Factor e uno diventa qualcuno, ma e si è forse una meteora, ormai i tempi sono molto più ridotti e basta una stagione televisiva per finire nel dimenticatoio. Ai miei studenti dico: non offendetevi, potrete avere anche 8-9 di italiano e fare dei temi quasi gradevoli, ma non è che siete tutti Manzoni o Leopardi, e quindi non è possibile che tutti siamo quei grandi geni che verranno ricordati, no? E quindi non tutti sono così grandi, anzi forse le persone vengono ricordate perché sono eccezionali. Noi siamo un popolo, quello italiano, un popolo di scrittori, no? Non di lettori forse, non è che tutti facciamo opere degne del premio Pulitzer o del Nobel della letteratura o chi lo sa. E quindi bisogna dire attenzione, perché questa soluzione della gloria immortale non vale per tutti, ma tutti hanno il problema, tutti hanno la domanda. Oggi ci sono sul nostro pianeta 7,5 miliardi di individui, che è una cifra enorme, senza contare il grande numero di cadaveri che la storia umana ha seppellito nel corso dei millenni, Quanti di questi 7,5 miliardi possono sperare di diventare famosi e immortali? Ben pochi. E io posso dirlo anche nell'esperienza dei miei 20 anni di insegnamento di storia e filosofia nel liceo. Ho avuto centinaia e centinaia di studenti e posso contare sulle mezze dita di una mano quelli che mi hanno veramente colpito per qualità eccezionali. Chiaro, il mio è un punto di vista limitato, ma se la maggior parte dei diciottenni di oggi cerca la fama rinchiudendosi, non so, nella casa del Grande Fratello o sperando di fare la velina o andare appunto in qualche talent show, è chiaro che forse questa generazione non cerca l'immortalità con romanzi, poesie, invenzioni, perché ha capito che forse veramente questo Olimpo è accessibile a pochissimi. E poi mi piace ricordare quanto è accaduto alla morte di Giacomo Leopardi. Il suo amico Ranieri, che lo assiste negli ultimi giorni, siamo a Napoli, scrive 2 lettere a Monaldo Leopardi, il padre del grande poeta di Recanati, e lo rassicura, pensate un po', sul fatto che Giacomo aveva fatto una morte santa e non, cito, senza essere stato munito e antecedentemente e allora stesso dei più dolci conforti della nostra santa religione. C'è un bellissimo libro scritto da Marcello D'Orta, che ho avuto il piacere e l'onore di curare come editor per le edizioni PM qualche tempo fa, che racconta di questa conversione. Si intitola All'apparir del vero, il mistero della conversione e della morte di Giacomo Leopardi. È un libro ormai di alcuni anni fa, non è facile forse trovarlo, ma è un testo prodigioso, l'autore lo conoscete perché Marcello D'Orta è quell'insegnante scrittore che era salito alla ribalta nel 1990 pubblicando, io speriamo che me la cavo, 60 temi di bambini napoletani, che è stato poi un bestseller che ha venduto oltre 2 milioni di copie. Ecco, tornando alla morte di Leopardi, mi preme notare come questa lettera che troviamo in questo bellissimo testo che racconta di questa prodigiosa conversione, ma a un certo punto mi dice proprio che non soltanto allora, cioè quando stava per morire, ma anche antecedentemente Leopardi aveva ricevuto i conforti religiosi. E questo è bello perché mi pare proprio importante, no, che nel momento decisivo della sua vita, cioè la morte, non si preoccupa di chiamare il tipografo e ordinare ristampe delle sue opere per poter sopravvivere nel ricordo dei posteri, lui che pure era un grande, ma fa chiamare un sacerdote per ricevere i sacramenti. Allora capite che la fragilità dell'opzione vivremo nella gloria imperitura dei posteri perché saremo dei grandi è duplice a quanto pare. Da una parte sono pochissimi i grandi e dall'altra vedete come un grande come Leopardi alla fine della vita non si preoccupa di assicurarsi la gloria, peraltro non imperitura ma destinata a finire sulla terra, ma cerca di arrivare a quella gloria eterna che è la gloria del paradiso. E adesso mi chiederete, magari all'ascolto c'è anche qualche collega insegnante, condividiamo la domanda, ma è un po' retorica, chissà come mai le antologie, i testi manuali di scuola di queste cose non parlano. I miei studenti non sanno né che si è convertito Leopardi, non sanno quasi niente dell'animo profondamente religioso del Manzoni, appena appena si cita la provvidenza, ma giusto perché si fanno i promessi sposi, ma poi quello che è veramente il senso di Dio, i moti dell'animo, della conversione, pensate anche soltanto alla conversione di Napoleone, no? Cioè uno legge il 5 maggio e è finita lì, ma ci sono testimonianze autografe di Napoleone che raccontano di come negli ultimi anni dell'esilio ha incontrato Dio. Perché non se ne parla agli studenti di oggi? Perché evidentemente gli adulti sono i primi a non sapere poi come fare i conti con queste controprove di quella visione della vita che viene passata dalla maggior parte anche di coloro che fanno gli educatori nella scuola di oggi. Ecco, non me ne vogliono coloro che invece insegnano che siamo fatti per il cielo, ma sono veramente pochi. Nella maggior parte dei casi ci accontentiamo di insegnare a questi ragazzi che sono affamati di infinito, che se non fanno insomma troppo rumore, non danno fastidio, non sporcano e seguono un po' di costituzione, andrà bene così. E invece non andrà bene un bel niente, perché il cuore di questi giovani, come il cuore di ogni uomo, è fatto per l'infinito. Ecco, io mi vorrei fermare qui questa sera, cari amici, perché mi sembra di aver dato un bel po' di stimoli, e quindi ci lasciamo con un breve momento di una pausa musicale, poi vi aspetto in diretta per le vostre domande, che come sempre vi chiedo brevi e in tema con quanto presentato. A più tardi. Pronto? Buonasera. Sì, innanzitutto grazie per il programma, i complimenti, e la sento sempre molto volentieri. Volevo farle una domanda. Prego. Volevo farle una domanda. Come mai i sacerdoti nelle messe così non parlano mai dell'aldilà, di queste cose? E io conosco molta gente che va in chiesa, viene in chiesa, però non crede alla vita eterna. Grazie per questa domanda, che effettivamente ribadisce la ragione di parlarne, non soltanto dai microfoni della nostra Radio Maria, ma forse a ogni occasione opportuna e inopportuna, mi viene da dire, ricordando le parole dell'Apostolo. E non se ne parla perché, come notava il Cardinal Biffi, parecchi anni fa la Chiesa è come se da buona parte della propria omiletica avesse espulso i novissimi. Io dico che ci sono in realtà tre grandi argomenti che non fanno più audience quando si va in chiesa e si ascolta magari una predica dal pulpito: non si sente più parlare della morte, del peccato e del diavolo, che sono quelle tre cose per liberarci dalle quali Cristo è morto in croce. E quindi non è casuale la scelta, è abbastanza diabolica, perché è come se uno eliminasse l'essenziale. Ora, se uno mi dice: ma poi la gente va a pranzo la domenica, ma devi mica rovinargli l'appetito, ma dovrebbe essere il contrario, perché parlare della morte nella prospettiva che sto cercando, ecco, molto umilmente, di percorrere insieme a voi in questi mesi con queste conversazioni, è tutt'altro che un brutto antipasto, perché ci dice: guarda che non finisce tutto qui, c'è una grande apertura. Bisogna avere forse il coraggio di riprendere in mano questo tema, che è l'unico che veramente conta, perché guardate che quando mi trovo a parlare con giovani, adulti, famiglie, coppie di fidanzati, alla fine le domande sono queste. E le tante questioni che agitano i titoloni dei giornali dentro e fuori la Chiesa non sono sempre le questioni che più stanno a cuore al popolo di Dio, alle persone semplici, che invece si chiedono: ma dopo, ma cosa sarà di me? Ed è fondamentale riuscire ad affrontare questa questione. Cito spesso questo risultato di un questionario affrontato da un sociologo della religione ormai una ventina di anni fa, che interrogando centinaia di fedeli all'uscita di una messa domenicale in diverse città d'Italia, riscontrò che il 60% di coloro che erano appena stati a messa dicevano di non credere alla vita eterna. E tante volte capita forse anche nelle omelie dei funerali, quando sentiamo parlare delle tante virtù del caro estinto, e però ben poche parole che guardano avanti, dove avanti vuol dire: non mi fermo a queste spoglie mortali che pure sto onorando per la fede che ho nella resurrezione dei corpi e alla fine dei tempi, ma devo guardare oltre, al giudizio, alla prospettiva del paradiso. Ecco, quindi sul perché, io dico: il perché è una questione di fede, perché quando non si perde la fede si tiene lo sguardo puntato al cielo, e la fede anzitutto in Cristo risorto, Cristo figlio di Dio risorto a vita nuova, che ci chiama allo stesso destino. Allora, come ci dice l'Apostolo, se siete risorti in Cristo, guardate alle cose di lassù, pensate alle cose di lassù. Mi viene da dire che forse è un'intenzione per cui varrebbe la pena di pregare, per cui, facendo tesoro dell'intervento dell'ascoltatrice, ecco, condivido un po' questa richiesta e questa intenzione proprio con tutti gli ascoltatori, come la Regina della Pace Medjugorje ci ricorda che siamo fatti per il cielo. Quando preghiamo per i nostri pastori, preghiamo perché abbiano sempre più a cuore di ricordare anche a noi questo splendido destino per cui il Signore ci ha pensati e preparati. Pronto? Pronto. Io mi chiamo Anna da Pistoia, chiamo. Benvenuta. Grazie, grazie per tutto ciò che fa, lo ascolto spesso. Ora non so, io sono ignorante, non mi so spiegare in tanti tanto bene. 40 anni fa ho perso una bimba di 7 anni. A me, più che la morte, mi fa paura il dolore, non mi fa paura. È la sofferenza che sia assistendo una persona che soffre e che poi non c'è più niente da fare. Comunque, gli ho detto, 40 anni fa ho perso una bimba di 7 anni, un tesoro di bambina. Un anno fa ho perso mio marito, che aveva, non posso dire aveva perso la fede, perché queste cose le sa solo il Signore. Allora io gli devo dire, essendo nella stanza dell'ospedale, arriva un fraticello, guarda questa bambina, e ce n'era anche un altro di bimbi malati uguali, di tumore. E io dico la verità, mi emozionai e mi venne di dire, perché padre? Forse avevo una fede più forte allora, ora io so i miei bei anni di 85. Allora mi fece, ma me lo disse in una maniera, entra questo fratino nella stanza di questi due bambini, maschi e femmina, la mia bimba, feci padre, perché, avrei voluto dire, perché cascare in una malattia così, tumore a 7 anni, la più grande, ne ho conosciuti 9, e la più grande aveva 18 anni, la più grande aveva 18 anni. Bene, abbiamo perso la linea per un problema tecnico, ma io ho colto, credo, il senso di questo intervento, e spesso la domanda che ci poniamo dinanzi a queste sofferenze è perché. E io posso immaginare che anzitutto si debba cambiare la domanda e riuscire a non cadere nella disperazione e nel dolore, e chiedersi anzitutto per chi, e per chi dovremmo pensare può avere un senso vivere un'esperienza del genere, solo per Gesù, perché Gesù è il primo, e lo vedremo in modo specifico in una delle prossime conversazioni, che ha affrontato questo grande dramma che è la morte vissuta come la vivono gli uomini, come la fine della vita. Però c'è un punto su cui mi sento di intervenire nello specifico. Intanto ricordare che è vero, solo Dio legge nel cuore, chissà anche suo marito, magari apparentemente lontano, nell'ultimo il Signore quanto può aver tentato di avvicinarlo comunque alla sua misericordia di Padre buono. Chissà quanto, ecco, gioiranno poi padre e figlia ritrovandosi, lo speriamo, e presto, in cielo, ma soprattutto quando siamo accanto a persone che stanno soffrendo, dobbiamo pensare che gli uomini sono fatti di corpo e di anima. E a volte, anche se vediamo il corpo nella sofferenza, non dobbiamo ricavare come conclusione necessaria che anche l'anima sia nella disperazione, perché Dio è capace di grandi consolazioni e di grandi aiuti, anche quando magari siamo accanto a una persona che sta vivendo l'ultimo tratto del suo cammino terreno e non ce ne accorgiamo. Dio dà sollievo, dà consolazione e dà pace. Questo dobbiamo avere la fede di ottenerlo e l'umiltà di chiederlo nella preghiera. Pronto, professore? Prego, parli pure in diretta. Buonasera, professore. Sono Sergio, chiamo dalla provincia di Modena. Io semplicemente volevo confermare quello che lei sta dicendo, prendendo l'esempio più bello che abbiamo in questo momento, ma da anni, grazie a Dio, che è padre Livio, il quale continua a battere continuamente su questo tema, riferendosi anche ai messaggi della Madonna di Medjugorje, che dice appunto che l'unica cosa che conta è la vita eterna, tutto il resto passa. E veramente c'è da ringraziare il Signore per questa grazia che noi che ascoltiamo Radio Maria abbiamo, perché ci rammenta che, come dice anche Giacomo, la vostra vita è come un soffio di vapore, un attimo c'è, l'attimo dopo non c'è più. Grazie per questo intervento, che considero forse la miglior conclusione, ecco, non sul tema, ma sicuramente per questa puntata di questa sera, per questa conversazione. È vero, a volte puntiamo forse il dito sulle cose che non vanno e non ci accorgiamo delle grandi cose che vanno. Per tanti magari casi in cui questi argomenti vengono taciuti, ce ne sono magari di così numericamente più rari, ma fortemente consistenti e di grande valore e profondità, come appunto è Radio Maria, e attraverso tante trasmissioni, rubriche, catechesi, non solo del direttore, anzitutto del direttore, ma non solo, sentiamo richiamare questa grande verità che è proprio l'essere fatti per la vita eterna. Io credo che anche questo momento di pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, si spera ormai in quella che è la sua fase terminale, sperando di poter presto arrivare all'uscita, credo che sia stata una grande opportunità nella sofferenza, nella fatica, per accorgersi che la morte è una domanda che non può essere elusa e che la precarietà della vita è in realtà un trampolino che apre all'eternità. Credo che per molti si sia trattata di una situazione di grande sofferenza per quello che si è vissuto come malattia in prima persona o magari anche assistendo le persone care, però bisogna essere onesti, Dio riesce a trarre un bene anche dai grandi mali e tutto concorre al bene, no? Per coloro che amano Dio. Allora dobbiamo dire che anche in questa prova, mentre non facciamo mancare la nostra preghiera insieme a tutta la grande famiglia di Radio Maria per coloro che sono malati, ricordiamo nella preghiera, affidando alla Divina Misericordia le anime di tutti i defunti, non solo per questa pandemia ma morti in questo tempo, tutte le persone che si sono prodigate e ancora lo fanno per portare assistenza a livello medico, sanitario, ma anche quotidiano. Ecco, mentre facciamo questo però diciamo anche al Signore grazie, perché con la forza del tuo Santo Spirito abbiamo colto una luce in questo tempo di tenebra, ed è la luce di chi vede che nella fragilità della vita c'è una ragione grande per pensare che non finisce tutto qua e che quel desiderio di infinito che c'è nel nostro cuore trova risposta nel grande annuncio che nel Vangelo Gesù stesso ha portato, dicendo: io sono la resurrezione e la vita. Bene, cari amici, mi fermo dunque qua, raccomandandomi ancora una volta alle vostre preghiere, assicurando a tutti voi la mia preghiera e chiedendovi in particolare di ricordare, come chiede sempre di fare a ognuno, il Santo Padre nella preghiera. E quindi una santa notte a tutti da parte di Diego Manetti e una risentirci il prossimo primo sabato del mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.